I lavori di domani di Anna Marino. Vi siete mai chiesti che cosa fa un biologo molecolare e che cosa vuol dire biologo molecolare 4.0? Perché sì, anche nei mestieri tradizionali e quelli che comunque sono a contatto stretto con la ricerca, tutto sta cambiando. E noi, come sempre, come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24, alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro, biologa molecolare 4.0, segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere in informazione, la formazione e, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura, grazie a Giulia Biffi, biologa molecolare 4.0. Io ho un laboratorio all'Università di Cambridge, al Cancer Research Cambridge Institute, e in aggiunta sono co-leader del Pancreatic Cancer Program al Cancer Research UK Cambridge Center. Il mio laboratorio in particolare si occupa di cancro al pancreas, in particolare studiamo come le cellule del cancro rimodellano e trasformano le componenti non cancerose circostanti e viceversa come queste componenti promuovono la progressione del cancro al pancreas. Il nostro obiettivo è generare nuove terapie che blocchino queste interazioni protumorali tra le varie componenti del microambiente tumorale per questo tipo di cancro, per cui attualmente non ci sono cure. Ma per raggiungere questo obiettivo dobbiamo capire meglio la biologia dell'ambiente tumorale del cancro al pancreas e come le varie componenti interagiscono e cambiano, in particolare quando il tumore è sottoposto a un particolare intervento terapeutico. Quali sono appunto i metodi che utilizzate e qual è stato il percorso? Utilizziamo varie tecniche per studiare le interazioni cellulari nell'ambiente tumorale, in particolare modelliamo il cancro al pancreas con modelli murini e colture cellulari tridimensionali chiamate organoidi. In che cosa consiste allora il tuo lavoro quotidiano, la tua giornata tipo, insomma, per capire meglio a fondo che cos'è il compito di un biologo molecolare? Premetto che la mia giornata tipo non è necessariamente la giornata tipo di questa professione. Vado in laboratorio abbastanza presto e cerco di finire il mio lavoro in laboratorio prima che arrivino i miei studenti, al che alterno mentoring degli studenti e seguire il loro lavoro con vari meeting, per lo più online in questo periodo, scrittura di grants per ottenere fondi, revisione di grants, revisione di articoli, scrittura di articoli, preparazione di presentazioni per conferenze o seminari e planning per i vari meeting e necessità del Pancreatic Cancer Program, che è indipendente al mio laboratorio. Per avere un tale compito, dove ti sei formata e qual è stato il tuo percorso formativo? Ho fatto sia la laurea triennale che magistrale all'Università di Pavia in biologia molecolare. Durante i 5 anni di università ho vissuto al Collegio Ghislieri, che è un collegio di merito a cui si accede con un test ingresso e si rimane se si riesce a mantenere una certa media di voti. Vivere in collegio sicuramente è stata la parte migliore degli anni di Pavia, è stato essenziale sicuramente per la mia formazione umana e personale, e il lato migliore è stato essere parte di una comunità diversificata tra studenti di diverse discipline. Alcuni dei miei migliori amici di oggi li ho incontrati in collegio e non li avrei probabilmente incontrati altrimenti. Il collegio è anche stato un punto di svolta fondamentale per la mia carriera, in particolare tra il primo e il secondo anno di laurea magistrale. Grazie a una borsa del Collegio Ghislieri sono potuta andare a Cambridge a fare un'esperienza di laboratorio nel dipartimento in cui ho poi fatto il dottorato, dipartimento che è il Cancer Research UK Cambridge Institute, dove oggi ho il laboratorio. Senza l'opportunità che il collegio mi ha dato non saprei dire se sarei dove sono oggi, probabilmente no. Ed è questo il volano per cui si invoca molto spesso un aiuto per i nostri cervelli italiani, per le ricerche, per appunto le nuove professioni e le professioni che guardano al futuro come questa, perché il futuro non è soltanto un futuro del lavoro, del tuo lavoro, ma è un futuro per tutti. La tua ricerca potrebbe salvare molte vite. Ecco, è importante anche capire quali sono gli step formativi che hai avuto. Cioè, nel senso, anche se ho fatto liceo scientifico, in realtà la mia formazione direi è stata di tipo classico, perché i miei professori prediletti erano filosofia, storia, lettere e latino. Sicuramente il percorso universitario è stato quello per me più importante, ma per quanto riguarda la formazione per questa figura, il lato positivo per me, forse negativo per altri, è che non c'è un percorso specifico per arrivare a questo lavoro. Ci si può arrivare da mille direzioni, da mille percorsi. Quello che consiglio è di trovare un tema che ti appassioni e che ti permetta così di sopportare anche i sacrifici che potresti dover fare, perché comunque non è una professione necessariamente stabile, può essere anche un po' da nomade e quindi si deve avere per me un buon motivo per volere farla. E all'inizio da studente consiglio di fare varie esperienze di laboratorio, contattare professori che fanno un tipo di scienza che appassiona e usare. È la chiave, insomma, per il tuo mestiere, ma per tutti i mestieri. Facciamo una parentesi. Fino adesso che cosa hai scoperto per capire un po' gli obiettivi, come si realizzano, e anche grazie magari alle tecnologie, agli open data, insomma, immergendo anche le professioni nell'attualità? Il mio dottorato è stato veramente molto diverso dal mio postdoc e da quello che lavoro oggi. Durante il dottorato ho fatto ricerca su strutture del DNA, del RNA chiamate G-quadruplex, e abbiamo scoperto che queste strutture si formano in cellule umane grazie alla generazione di un particolare anticorpo. Ma il mio particolare interesse è sempre stato quello della ricerca sul cancro, e quindi per questo, per il mio postdoc, ho completamente cambiato percorso. Ho iniziato a studiare il cancro al pancreas, che è quello di cui mi occupo anche oggi, e scoperte in quel campo, probabilmente la principale è che abbiamo ora capito che le cellule del microambiente tumorale sono molto più diversificate di quello che pensavamo prima. Ovviamente la tua professione è anche un cantiere aperto, un lavoro continuo, un laboratorio, ed è anche questo progressivo a seconda della seniority, anche il guadagno. Qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro? Ovviamente anche a seconda della seniority. Questo dipende largamente dal paese in cui si è. Per esempio in America il mio stesso livello di adesso prenderei più del doppio di quello che prendo in Inghilterra, e in Inghilterra prendo poco di più di quello che prendevo da postdoc in America. Con l'avanzare degli anni c'è un aumento, ma non incredibile, anche da professore, e sicuramente non è una professione che si sceglie per il tipo di guadagno. In quel caso consiglierei l'industria, all'accademia. Secondo te è un lavoro comunque molto ricercato? Dove si può trovare? Non penso, lo considererei un lavoro forse molto ricercato, e come ho detto ci si può arrivare da molte direzioni. Se iniziate con l'università, un dottorato è necessario, e poi tutto può succedere, si può passare da essere indipendenti con una fellowship o da dover fare un postdoc seguito poi da un altro postdoc, oppure fare solo un postdoc e diventare group leader di un gruppo indipendente. I consigli per la formazione della tua figura ce l'hai già dati, adesso vogliamo riassumere. Come diciamo sempre, prendete carta e penna ai vostri device e via con gli appunti. Quali indicazioni, app, siti per formarsi e informarsi ci puoi consigliare? Essere proattivi è quello che garantisce il successo per arrivare a qualsiasi step di questa professione, quindi consiglierei di tenersi informati con riviste scientifiche come Nature, Science e Cell. Nature in particolare e Science hanno degli editorials e delle sezioni più informative sulla formazione, da studente fino a group leader. Questi sono appunto dei siti e delle app che poi troverete tutti, lo diciamo ai nostri ascoltatori, accanto alla descrizione sul sito internet della radio www.radio24.it, e potete cliccare poi e informarsi. Ultima domanda: che tipo di sviluppo vedi per il futuro della tua figura? Da un punto di vista generale, il mio personale obiettivo è multiplo: avere un impatto significativo sulla conoscenza scientifica e sul benessere e sopravvivenza dei pazienti di cancro al pancreas, ma anche l'obiettivo di avere un impatto sulle generazioni di studenti e postdoc che avrò l'opportunità di mentorare, e che a loro volta potrebbero avere un impatto sulla conoscenza scientifica e benessere dei pazienti. Ho anche l'obiettivo di avere un impatto sulla cultura accademica, che diventi più inclusiva, diversificata, meritocratica e accessibile al mondo al di fuori dell'accademia. Insegnare ed alti obiettivi ovviamente di valore, insomma, bisogna sempre mettere l'asticella in alto per avere anche una grande motivazione. E anche il fatto di, insomma, essere una figura femminile in questo campo, e anche i Nobel stanno fioccando, insomma, anche per le donne, ecco, vuol dire anche un messaggio di trasversalità delle competenze e dell'intelligenza. Sì, penso che si può, generalmente si tende a fare o aspirare a fare qualcosa solo se si ha una figura di riferimento e ci si può immaginare essere quella figura, quindi un ambiente più diversificato in accademia è necessario e si sta lentamente arrivando all'obiettivo.